anche se fa buio, mi sembra che le distanze si accorcino un po'. E ho dormito già, con il freddo che c'è. Ora sono sveglio e ho voglia di correre. Confusa la radio, sopra il rumore delle ruote che tirano. Stordita la luce che si riflette su una linea